Radio Onderosa 87.9 FM. Quando sono le ore 23 riapro ufficialmente il microfono di Radio Onderosa perché vi sto per annunciare una nuova trasmissione targata Altroverso. Anche oggi, sabato 25 giugno 2011, chi vi parla è Nino H. DJ Misk, che assieme a Silvia, in arte Mischietta, vi selezioneranno per tutto questo sabato notte la migliore musica elettronica underground, direttamente su queste frequenze libere e ribelli che rispondono al nome di Radio Onda Rossa. La radio che stai ascoltando, insomma, dal 1977, qui nella provincia di Roma. Vi ricordo i vari contatti per interagire con la trasmissione attraverso chiocciolaondarossa.info, la nostra email. Il nostro sito ufficiale invece è www.altroverso.net. Se invece volete visitare ed ascoltare naturalmente in streaming la radio, basta andare sul suo sito ufficiale, che è www.ondarossa.info. Dunque, abbiamo dato i vari contatti, quindi direi che siamo veramente pronti, quindi iniziamo a slacciare le cinture e ad alzare ancora di più il volume, perché sta iniziando Altroverso e questa è la puntata numero 671. Radio Onda Rossa ti invita all'ascolto di Altroverso dalle 23 alle 6 del mattino. News, classifiche, recensioni, live e DJ set da tutto il mondo. Altroverso, il meglio della musica elettronica. Thank you. Abbiamo così iniziato con una ottima produzione italiana su una nuova label, si chiama la In Depth Music. Gli artisti si chiamano Genetical Twins. Questa si intitola Blast nella splendida versione remix da parte di Avril Lounge. Si chiama Avril Lounge Acid House Remix per l'esattezza. E dunque la prima new release di questa settimana di Altroverso. Vi ricordo qui su Onda Rossa assieme a DJ Miss che mi schietta sabato 25 giugno 2011 fino alle 6 della mattina. Fatevi sentire anche tramite i vari social network, insomma Facebook, MySpace, chiedete l'amicizia ad Altroverso, insomma è semplicissimo, basta così digitare proprio Altroverso e ci troverete. Andiamo avanti con la musica, adesso ascoltiamo la ottima traccia Redemption per Nine West sulla label Live Detail Digital. Classico stile Deep House, perfetto proprio per questo periodo caldo, per questa estate veramente rovente. Un po' qua si sta facendo veramente la schiuma, come si dice qui a Roma, insomma quando si suda e si fa veramente fatica anche a respirare, causa l'afa, causa il caldo. Comunque siamo qui sempre con la musica di Altroverso, sempre con le novità per questa prima ora. Adesso arriva Top con Your Sex su etichetta Supplement Fax. Ascoltiamo il Paul Rich Remix. Your Sex, Paul Rich Remix per i DOP su etichetta Supplement Pax, terza new release di questa settimana all'interno di Altroverso. Vi ricordo, se volete sapere più nel dettaglio i nomi precisi degli artisti, i titoli delle tracce, nome, etichette, basta andare sul nostro sito www.altroverso.net nella sezione playlist, potete leggere così nel completo appunto la playlist di questo sabato ma anche delle trasmissioni precedenti. Vi ricordo anche che nello stesso sito trovate anche la sezione podcast per riascoltare in tranquillità sul vostro PC in qualsiasi momento insomma della settimana, della giornata, anche la trasmissione registrata, oltre naturalmente alla web radio online 24 ore su 24 con le selezioni più aggiornate, le selezioni più nuove naturalmente della musica elettronica underground. È entrato subito il bel dischetto di Barem, si chiama Blue, nella Vox Versions su etichetta Minus Records. Questo è Altroverso. Argentino Barem, che ormai insomma da qualche tempo ci ha abituato alle sue produzioni così minimal, sempre con quello stile, con quel tocco particolare, ha prodotto questa ottima Blue sulla label Minus Records. Questa era la Vox Version. Adesso passiamo invece a Bashwaka con la sua Energy su Olmedo Records. l'ottima traccia di Bushwaka, si intitola Energy ed è la B-side del suo nuovo 12 pollici che si intitola Westside ed esce su etichetta Olmedo Records. La prossima novità invece si chiama Roder, è Live Jam 1, questo è il remix di You and Me per l'etichetta Polymorph. Tecnoide abbastanza cattivo per You and Me che remixa questa Live Jam 1 su etichetta Polymorph Records, era Roder. Adesso andiamo in casa High Grade Records, nuovo disco di Philip Bader, veramente un grande disco, un'altra grande produzione per questa label di Berlino, la High Grade. Ascoltiamo For You, questo è sempre DJ Mischia con Mischietta, questo è Altro Verso. this game like it's designed in their face. Like it ain't outlined for them to waive their rights for a little fame. Getting bullshit fights for a little name to get noticed by some niggas that don't give two fucks about you. Till you make them a few bucks, they doubt you. Tell them you don't do the job, and shut. And they route you to the shelf. See, there's no money in good health, so they need you to be sick with you. Ill content and delivery, niggas. This nation thrives off misery, niggas. So if you ain't trying to let your hard times increase my wealth, nigga, keep that progressive shit to yourself. This is the business of buying souls, and we only fuck with those who try to sell them. You see, they may see me as an adversary, cause they know I'm trying to tell them about the forest, the artists who grow, only to meet industry access. How they take a nigga dreams and write them off in their taxes. Contracts is confusing, but don't worry, they'll appoint a lawyer for you. Boy, Io, questa è veramente una grande track firmata Philip Butter, si chiama For You, e ve l'abbiamo fatta ascoltare in anteprima all'interno di Altroverso qui come selezione novità, esattamente la numero 7 di questa prima mezz'ora. Era su etichetta High Grade Records. Adesso ci fermiamo brevemente per una piccola pausa e poi subito con la seconda parte di New Release. Rimanete sempre qui su Onda Rossa. Forse non tutti sanno che buoi e cavalli ascoltano Altroverso, musica nuova per animali, fino all'ultimo respiro. Tu sei diverso dagli altri, tu non fai parte del branco, tu hai deciso. Altroverso, creatori di uomini nuovi. La notte comincia con Altroverso. Porto dalla notte, musica elettronica sin interruzione. la seconda parte, novità di Altro Verso con questa Sebastian Russell, la sua Far Roundhouse su etichetta Fenu Records. Vi ricordo sempre all'ascolto di Altro Verso, altri suoni, altra musica elettronica, la musica che vi facciamo ascoltare proviene dalle label indipendenti, dal panorama underground europeo, ma non solo. Ogni tanto diciamo ci affacciamo anche dall'altra parte del continente, anche se naturalmente non è ovvio dirlo, però principalmente diciamo questa musica va per la maggiore qui nel nostro continente europeo, e da qui insomma che provengono la maggior parte delle label, anche se gli artisti magari sudamericani sono tra i più come dire, tra i più propositivi. Non è un caso insomma citare non è un caso insomma che Villalobos, Luciano, ma anche Barem insomma siano riusciti ad emergere e insomma ad uscire anche abbastanza dall'underground ad imporsi anche a livello un po' più mainstream. Dunque sto veramente parlando troppo, infatti ho tagliato corto perché è meglio ascoltare la musica, è la musica quella che così ci fa emozionare, ci fa viaggiare, anche sognare. È il caso di questa traccia, si intitola Crystalline, uscirà su Experimental Records, gli artisti sono Freeman e Massa, qui in Altro Verso, solo musica elettronica, solo su Onda Rossa. Con Crystalline su Experimental Records, i prossimi invece si chiamano Darren Nugent e Pavel Lenchenko con How Can I nella versione remix di Alex Kidd per l'etichetta Mood Music Records. Mm-hmm. ascoltato anche Alex Kidd che remixa la traccia How Can I, prodotta da Darlan Nugent e Pavel Lenchenko. Adesso vi parlo del nostro sito www.altroverso.net, sito da cui ascoltare la trasmissione podcast scaricandola sul vostro computer, sito da cui ascoltare in qualsiasi momento della giornata la nostra web radio 24 su 24 con le migliori selezioni più aggiornate di Altroverso, e sito da cui naturalmente leggere anche la playlist di questo sabato. Quindi se volete sapere i nomi delle tracce, i titoli degli artisti, degli artisti non titoli, insomma, vabbè, ci siamo capiti, basta andare sul sito www.altroverso.net, nelle varie sezioni insomma trovate le info più dettagliate proprio di questa trasmissione. Vi consiglio anzi di iscrivervi anche alla newsletter, così per ricevere direttamente nella vostra email gli aggiornamenti settimanali. Siamo passati adesso su etichetta Lebensfreud per ascoltare Ezekiel Hesley e la sua Chiron. Ezekiel Hesley con Chiron su Lebensfreud Records. prossimo invece è un duo, si chiamano Jens Bond e Benno Blom, assieme per la seconda release della Sensor Records. Ascoltiamo la loro Voice Metal. Sensor Records, la nostra quinta nuova novità per questa seconda mezz'ora di Altro Verso. La prossima è targata Tom Desin and Goals, si chiama Manuve su Circle Music, sempre qui, sempre con Altro Verso. We'll be right back. bella prova questa manovra per Tom Dancing and Ghosts su etichetta Circle Music, effetti splendidi, insomma, che ci emozionano alla grande. Siamo quasi in addirittura di arrivo per questa prima ora di Altro Verso. Dobbiamo ancora ascoltare l'ultima novità della settimana, poi vi ricordo che andrà avanti la selezione automatica fino alle 6 della mattina, con dalle 24 fino alle 5 l'ascolto delle tracce più nuove che girano nella rotazione di Altro Verso, e poi dalle 5 alle 6 della mattina la zona chill out, la zona dove ascolteremo appunto i suoni per rilassarsi e chiudere la nottata andando tranquillamente a letto. Mi raccomando, insomma, passate una grande sabato notte, ma fatelo sempre con il cervello, perché insomma è importante andare avanti così, insomma, no? Ragionare piuttosto che agire sempre d'impulso. Allora basta con veramente le chiacchiere, facciamo sempre ascoltare la musica, che è molto ma molto meglio, soprattutto di sabato notte. Ora arrivano John Selway e Dave Turok con Chu Gori su Interpol. John Selway e Dave Turov chiudiamo questa puntata numero 671, almeno per la sua prima ora di selezione novità. Sabato 25 giugno, sempre con la musica elettronica, andrete avanti fino alle 6 della mattina, andremo avanti perché insomma l'ascoltiamo anche noi per tutta la notte questa grande musica elettronica underground. e sempre qui su Onda Rossa andremo avanti, dicevo, con le selezioni in automatico fino alle 5, poi dalle 5 alle 6 invece zona chill out. Maggiori informazioni sulla playlist, per riascoltare il podcast, per ascoltare online la nostra radio 24/24, basta andare sul sito www.altroverso.net. Dunque adesso vi annuncio il disco della settimana, si tratta di Radio Slave ed il suo K-Maze EP su Cassini Records. E per quanto riguarda questa diretta di oggi, sabato 25 giugno, è veramente tutto, ci risentiamo sabato prossimo e naturalmente mi raccomando, non mollate, ma rimanete sempre qui su Onda Rossa. Prova anche tu la potenza rigenerante di Altroverso, 100% in vinile.